Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Da parecchi anni i Buddenbrock avevano rinunciato ai loro viaggi estivi e persino quando nell'ultima primavera Gerda aveva attuato il desiderio di andare a trovare suo padre ad Amsterdam e di suonare con lui qualche duetto dopo tanto tempo, il marito le aveva dato il permesso piuttosto a denti stretti. Che invece Gerda, Hanno e la signorina Jungmann si trasferissero tutti gli anni durante le vacanze estive nel grande albergo di Travemünde era di prammatica specialmente per la salute del figliuolo. L'estate al mare. Chi poteva mai immaginare questa felicità? In uno dei padiglioni svizzeri che, collegati da una stretta costruzione intermedia, formavano una linea dritta con la pasticceria e con l'edificio principale del grande albergo, quale risveglio la prima mattina! Il giorno precedente Hanno aveva superato bene o male il momento della presentazione della pagella e compiuto il viaggio con la carrozza carica di bagagli. Un vago senso di felicità che gli montava nelle membra e gli stringeva il cuore lo svegliava di soprassalto. Egli apriva gli occhi e abbracciava con uno sguardo avido e beato i vecchi mobili della stanzetta pulita. Un secondo di delizioso stordimento tra il sonno e la veglia, e poi si rendeva conto che era a Travemünde, per 4 interminabili settimane a Travemünde. Hanno Buddenbrock, nella sua muta beatitudine, aspirava a pieni polmoni l'aria aromatica che veniva dal mare, e con gli occhi mandava un saluto affettuoso e riconoscente. Poi incominciava la giornata. La prima di quelle misere 28 giornate che da principio sembravano un'eternità beata, ma passate le prime, volavano con disperata velocità. Si faceva colazione sulla terrazza e sotto il grande ippocastano laggiù, davanti allo spiazzo riservato ai giochi dei bimbi, dove c'era la grande altalena. E ogni cosa, l'odore della tovaglia lavata di fresco che il cameriere spiegava, i tovaglioli di carta velina, il pane insolito, il fatto che non si prendevano le uova come a casa coi cucchiaini d'osso, ma con comuni cucchiaini da tè e nei portauovo di metallo. Tutto divertiva il piccolo Hanno. E tutto il resto era ordinato in libertà. Era una vita deliziosamente oziosa e calda che si svolgeva senza pensieri e turbamenti. La mattina sulla spiaggia, mentre la banda dello stabilimento svolgeva il programma del mattino, il riposo sull'arena davanti al seggiolone, i giochi teneri e sognanti con la sabbia morbida che non insudicia, mentre gli occhi spaziano senza sforzo e senza dolore sopra l'infinito verde e azzurro dal quale arriva senza ostacoli, con lieve sussurro, un soffio fresco, gagliardo, dolcemente profumato, che ti avvolge le orecchie e provoca una piacevole vertigine, un leggero stordimento nel quale la coscienza del tempo e dello spazio e di qualsiasi limite affonda beata. Si poteva fare una passeggiatina in città lungo il prospetto. Di lì si poteva traghettare con la barca al Prival, sulla cui spiaggia si trovava l'Ambra. Nella piazzetta dei bambini si poteva partecipare a una partita di croquet o sedersi su una panchina del colle boscoso che sorgeva dietro gli alberghi, dove era la campana dei pasti, e farsi leggere un libro da Ida Jungmann. Tuttavia, la cosa più saggia era di ritornare al mare e, nel crepuscolo, col viso rivolto all'orizzonte aperto, sedersi in capo alla diga, salutare col fazzoletto le navi che passavano e ascoltare le piccole onde che col loro chiacchiericcio sussurravano contro i massi, mentre tutta l'aria era mossa da quel lieve e grandioso sussurro che diceva a Johan parole di bontà e lo invitava a chiudere gli occhi nella sua illimitata contentezza. La domenica, al pari di alcuni altri signori che durante la settimana erano trattenuti in città dalle loro faccende, il senatore veniva a trovare i suoi e rimaneva fino a lunedì mattina. Ma quantunque a tavola si servissero il gelato e lo spumante, benché si organizzassero cavalcate a dorso d'asino e gite a vela in mare, Hanno non nutriva molta simpatia per quelle domeniche. Erano passati 15 giorni e Hanno diceva a sé e a tutti quanti lo ascoltavano che si iniziava ancora un periodo lungo quanto alle vacanze di San Michele. Ma il tempo passava inesorabile. La carrozza carica di bagagli era ferma davanti all'albergo. Il giorno temuto era giunto. La mattina presto Hanno aveva già detto addio al mare e alla spiaggia. Quando la carrozza si lasciò indietro le ultime case, Hanno si sporse per vedere ancora una volta il faro. Poi si appoggiò allo schienale e chiuse gli occhi. «A un altro anno, caro», disse Ida con voce profonda e consolante. Ma non mancava che questo per fargli tremare il mento e fargli sgorgare le lacrime di sotto le lunghe ciglia. Hanno aveva le mani e il viso abbronzati dall'aria marina, ma se quel soggiorno al mare aveva avuto lo scopo di renderlo più robusto, più resistente, più fresco ed energico, lo scopo era miseramente fallito. Di questa disperata verità egli era tutto compreso. Quelle 4 settimane di adorazione del mare e di pace isolata avevano reso il suo cuore ancor più tenero, sensibile, viziato, sognante, ancor più incapace di farsi forza per apprendere la regola del 3. Egli riusciva difficile non disperarsi al pensiero di dover imparare a memoria le regole di grammatica e le date storiche, di buttare all'aria i libri con disperata leggerezza, di dormire profondamente per sottrarsi a tutto, di provare la mattina le note angosce in vista delle lezioni, delle catastrofi, dell'inimicizia degli Hagenström e delle pretese di suo padre. Dentro le scarpe sentiva ancora un po' di rena della spiaggia. Avrebbe pregato il vecchio Grobleben di lasciarcela per sempre. Ricominciasse pure tutta la vita con le giacche di lana pettinata e con gli Hagenström e col resto. Quel che aveva, aveva. Di fronte all'assalto di tutti quei guai avrebbe ripensato al mare e al giardino dell'albergo e sarebbe bastato un breve ricordo del rumore prodotto nel silenzio della sera dalle piccole onde scroscianti contro la diga per consolarlo e renderlo forte contro tutte le avversità. E adagio, tra lacrime segrete, il piccolo Ion imparò ancora a fare a meno del mare, riprese ad angustiarsi e ad annoiarsi mortalmente, a paventare sempre l'arrivo degli Hagenström e a consolarsi con Kai, col signor Pfühl e con la musica. 3 o 4 giorni dopo il suo ritorno in città, ecco comparire nella Fischergrube il medico di famiglia, dottor Langhals, per constatare gli effetti dei bagni. Dopo un colloquio piuttosto lungo con la mamma, Hanno fu introdotto perché si sottoponesse seminudo a un attento esame del suo status presens, come il dottor Langhals diceva, guardandosi le unghie. Questi esaminò i muscoli meschini del ragazzo, gli misurò il torace, ascoltò il moto del cuore, si fece riferire su tutte le sue funzioni corporali. Estrasse infine con la siringa dal braccino di Hanno una goccia di sangue per farne poi l'analisi e in complesso parve non proprio soddisfatto. «Ci siamo abbronzati», disse cingendo il collo di Hanno con un braccio e ponendogli sulla spalla la piccola mano coperta di peli neri, mentre guardava la madre di lui e la signorina Jungmann. «Ma abbiamo ancora la faccia troppo triste». «Ha nostalgia del mare», osservò Gerda Budenbrock. «Ah sì? Ci vai dunque volentieri?» domandò il dottore guardando Hanno con quei suoi occhi fatui. Questi impallidì. Che cosa significava quella domanda alla quale si vedeva che il medico aspettava risposte? E una speranza folle e fantastica, resa possibile dall'esaltata convinzione che, a dispetto di tutte le persone in giacca di lana pettinata, nulla è impossibile davanti a Dio, si impadronì di Johan. «Sì», disse con gli occhi sbarrati e fissi sul dottore, ma questi, formulando la domanda, non aveva avuto alcuna intenzione particolare. «Beh, l'effetto dei bagni e dell'aria buona si vedrà in seguito, verrà in seguito», disse, battendo una mano sulla spalla di Johan, spingendolo da una parte e alzandosi con un lieve inchino verso la signora e la signorina Jungmann, quell'inchino benevolo, incoraggiante e conscio che hanno i medici sapienti quando si pende dalle loro labbra, e terminò la seduta. La più pronta comprensione per il suo rimpianto del mare e per quella ferita che si rimarginava così lentamente e appena toccata dalla più piccola ostilità di tutti i giorni riprendeva a bruciare e a sanguinare, Hanno la trovò nella zia Antonie, che lo ascoltava con piacere palese mentre raccontava della vita di Travemünde e faceva eco cordiale ai suoi nostalgici elogi. Ai primi dell'anno 1873, il Senato accolse la domanda di grazia di Hugo Weinschenck e mandò a piede libero l'ex direttore 6 mesi prima che scadesse la pena inflittagli. Se la signora Permanedera avesse dovuto dire la verità, avrebbe ammesso che questo fatto non le aveva recato molto piacere e che avrebbe preferito che tutto fosse rimasto così com'era sino alla fine. Viveva tranquilla con la figlia e la nipote presso il parco dei Tigli. «Cara figliola», disse a Erika, «devo chiederti una cosa molto seria. Tu ami ancora tuo marito con tutto il cuore, vero? Lo ami al punto che dovunque gli vada, dato che purtroppo qui non potrà rimanere, sei disposta a seguirlo con vostra figlia. È così?» E siccome la signora Erika Weinschenck, nata Grüllich, con molte lacrime che potevano significare qualunque cosa, rispose con quel senso del dovere con cui una volta in circostanze simili Toni stessa aveva risposto a suo padre nella villa presso Amburgo, si incominciò a pensare a una prossima separazione. La giornata in cui la signora Permaneder andò a prendere il genero in prigione con una carrozza chiusa fu quasi altrettanto tremenda quanto quella in cui il direttore era stato imprigionato. Lo portò nella sua abitazione al Parco dei Tigli e quando ebbe salutato la moglie e la figlia, egli, confuso e sconcertato, si chiuse nella stanza che gli fu assegnata e stette a fumare sigari dalla mattina alla sera senza osar scendere nella strada e per lo più senza mettersi a tavola insieme coi suoi. Era ombroso e ormai tutto grigio. La vita in carcere non aveva potuto intaccare la sua salute perché era sempre stato di costituzione solida, ma aveva un aspetto da far pietà. Era spaventevole veder quell'uomo che molto probabilmente non aveva commesso se non quello che la maggior parte dei suoi colleghi commetteva allegramente tutti i giorni e che se non fosse stato colto in fallo avrebbe certo proseguito per la sua strada a testa alta e con la coscienza serena, vederlo moralmente annientato in seguito alla caduta, alla condanna e a quei 3 anni di prigione. Il suo passo elastico, l'aria intraprendente con cui si dondolava sulla vita, bilanciando i pugni e roteando gli occhi, l'insolita disinvoltura con cui, dall'alto della sua ignoranza e ruvidezza, formulava le sue domande e presentava i suoi aneddoti, tutto ciò era scomparso. Tanto scomparso che i suoi rabbrividivano vedendolo così depresso, così codardo e privo di dignità. Ugo Weinschenk, dopo essersi dedicato per 8 o 10 giorni soltanto al fumo, si mise a leggere i giornali e a scriver lettere. Con questo frutto, che dopo altri 8 o 10 giorni dichiarò con frasi sibilline che riteneva gli si offrisse una nuova posizione a Londra, ma voleva intanto recarsi là da solo per regolare le cose di persona e, quando queste fossero assestate, invitare la moglie e la figlia a raggiungerlo. Accompagnato da Erika, si recò in carrozza chiusa alla stazione e partì senza aver riveduto nessun altro dei suoi parenti. Dopo qualche giorno arrivò da Amburgo una sua lettera, con la quale faceva sapere alla moglie che era risoluto a non riunirsi con lei e con la figlia, e anzi a non dar notizie di sé, finché non potesse offrir loro un'esistenza decorosa. E quello fu l'ultimo segno di vita dell'ex direttore. Dopo di allora nessuno ne seppe più nulla. Benché più tardi la signora Permaneder, versata com'era in queste cose e piena di prudente energia, lanciasse vari appelli a suo genero per motivare, come dichiarava con aria di importanza, la domanda di divorzio o per abbandono premeditato del tetto coniugale, egli non si fece vivo. E così fu che Erika Weinschenk, con la piccola Elisabeth, rimase come prima insieme a sua madre nel luminoso appartamento sul Parco dei Tigli. Il matrimonio dal quale era nato il piccolo Johan non aveva mai perduto il suo fascino come argomento di conversazione. Come era certo che ciascuno dei due coniugi aveva un che di stravagante e di enigmatico, così era certo che quell'unione stessa era insolita e misteriosa. La gente parlava di Gerda e Thomas Budenbrock tanto più volentieri quanto meno ne sapeva sul loro conto. Come si erano trovati quei due? In che rapporti vivevano? Si rammentava la risolutezza improvvisa con cui aveva proceduto 18 anni prima l'allora trentenne Thomas Budenbrock. «Quella o nessun'altra», aveva detto. E probabilmente anche Gerda doveva essersi trovata nella stessa situazione. «Matrimonio d'amore, dunque», pensava la gente. Ma di amore, di quello che si intendeva per amore, se n'era visto ben poco fin dall'inizio fra quei due. Non si era notato altro invece che cortesia nei loro rapporti, una cortesia corretta e rispettosa, assolutamente straordinaria fra coniugi, una cortesia alla quale, e questo non si riusciva a capire, pareva derivasse non da un distacco, da un'intima lontananza, bensì da una singolarissima familiarità e da una profonda reciproca conoscenza, da una continua vicendevole indulgenza e dal bisogno di usarsi l'un l'altro tutti i riguardi. Di ciò gli anni non avevano mutato un filo. L'unico mutamento apportato dal tempo era che la loro differenza di età, per quanto fosse piccola, incominciava a dare nell'occhio. A guardarli si vedeva che lui era un uomo alquanto invecchiato, già un po' corpulento, con a fianco una donna giovane. Si notava che Thomas era deperito. Sì, questa era la parola giusta, nonostante la vanità un pochino comica con la quale si agghindava, mentre Gerda, in quei 18 anni, non si era quasi mutata per nulla. Pareva anzi ben conservata nel gelo nervoso in cui viveva e che da lei emanava. I capelli rosso scuri avevano mantenuto il colore, il bel viso bianco aveva ancora le fattezze regolari e la sua figura, l'antica signorilità, alta e slanciata. Non ci si fidava di quegli occhi. Avevano uno sguardo singolare e la gente non riusciva a decifrare ciò che vi era scritto. Quella donna che appariva così fredda, riservata e ritirata e sembrava concedesse soltanto alla sua musica un po' di calore vitale, destava vaghi sospetti. Si sa, l'acqua cheta è spesso profonda. E siccome la gente desiderava avvicinarsi alla faccenda e saperne e carpirne qualche cosa, la sua mediocre fantasia la portò a supporre che, senza dubbio, la bella Gerda doveva ingannare un pochino il marito invecchiato. Stettero attenti e, dopo non molto, si trovarono d'accordo nel pensare che Gerda Budenbrock, nei suoi rapporti col tenente von Trotha, passava, a dir poco, i limiti della morale. René Maria von Trotha, oriundo delle province del Reno, era sottotenente in un battaglione di fanteria di guarnigione in città. Il colletto rosso gli s'intonava bene coi capelli neri, con la scriminatura di fianco, spazzolati in modo da formare a destra un gran ciuffo di riccioli. Per quanto però fosse robusto e alto di statura, la sua figura, i gesti e il modo di parlare e di tacere erano tutt'altro che da soldato. Senza dubbio era entrato nell'esercito controvoglia, o perlomeno senza alcun attaccamento, perché nonostante la sua robustezza, nel servizio lasciava molto a desiderare. Passava per un originale, antipatico e stravagante che faceva passeggiate solitarie. Non aveva amore né per i cavalli né per la caccia, non s'appassionava né al gioco né alle donne e non pensava ad altro che alla musica. Infatti suonava parecchi strumenti. E con quegli occhi ardenti e quel suo atteggiamento indisciplinato, negletto e teatrale, lo incontravano a tutti i concerti all'opera, mentre invece evitava il circolo ufficiali e gli altri ritrovi. Bene o male, fece le visite indispensabili alle famiglie più in vista, ma respinse quasi tutti gli inviti e, a dire il vero, frequentava soltanto la famiglia Budenbrock. Troppo, pensava la gente. Troppo, pensava anche il senatore.